e questo è il richiamo del cervo, il più vivace, il più grazioso, il più profondo, il più mobile, il più vicino a noi, il più spinto, il più lamentoso, il più acutissimo abitante del bosco. Ce n'è ancora qualcuno nei boschi della Mesola e lungo il confine austriaco. Allora lo vedete che salta da un albero all'altro, distende la coda come un timone. Sembra che voli. Cervo di montagna, sulla neve tu sei.